Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La mozione di sfiducia presentata dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle mette in discussione quanto di più prezioso io possegga: la mia moralità, prima ancora che il mio ruolo politico. Con molta umiltà, ma anche con la piena consapevolezza di chi crede nella politica come forma più alta di servizio civile, mi rivolgo a voi, signori del Senato, per respingere con determinazione questo tentativo. Così si è difeso oggi in Senato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro dello sport Luca Lotti, contro il quale il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia che oggi è stata però respinta dal Senato. Questa mozione di sfiducia per il coinvolgimento del ministro Lotti nell'inchiesta Consip. Ne parleremo del voto di sfiducia, in particolare degli sviluppi dell'inchiesta Consip, che diventa sempre più complessa con vari filoni di inchiesta. Sapete, in questa è coinvolto anche il padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Poi ce ne occuperemo, così come questa sera effetto notte naturalmente non possiamo non occuparci di un voto cruciale, che è quello delle elezioni legislative in Olanda, perché è considerato, l'avrete sentito più volte, un test molto importante questo per il futuro dell'Europa. Tra i due sfidanti, tra il premier uscente Mark Rutte e il leader del Partito della Libertà Wilders, considerato islamofobo, xenofobo e populista, quindi se vincesse sarebbe considerato l'avanzare del populismo dopo anche la Brexit e l'elezione di Trump negli Stati Uniti. Quindi molti fatti anche questa sera, tra poco vi riassumo la giornata, i fatti principali, e poi cominceremo a approfondire tutti questi argomenti. Per la vostra interazione qui Effetto Notte, ormai lo sapete, c'è la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666. Direi di cominciare quindi con il racconto della giornata. Inchiesta Consip respinta dal Senato con 161 no la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle contro il ministro Lotti coinvolto nell'indagine. I sì sono stati 52 e 2 gli astenuti. E nell'inchiesta Consip nuova accusa di corruzione contro l'imprenditore Alfredo Romeo. L'Olanda al voto, importante test per il futuro dell'Europa, grande affluenza ai seggi, chiusi alle 21. Cosentino condannato a 7 anni e 6 mesi, l'ex sottosegretario era accusato di estorsione. Costo del denaro, la Fed rialza i tassi all'1%, altri due ritocchi previsti nel 2017. Voucher per evitare il referendum, si punta a un decreto legge per riformarli o per eliminarli. L'infinita strage delle donne, incidente con 3 morti in Friuli per il PM e omicidio-suicidio. Il conducente del furgone si è volontariamente lanciato contro un tir, morto con la moglie, morto anche l'autista del camion. Stati Uniti, Trump incontra i big dell'industria automobilistica e annuncia la fine dei limiti alle emissioni inquinanti delle auto voluti da Obama. Immigrazione, secondo l'agenzia Frontex, calano gli arrivi dei migranti verso l'Europa, ma raddoppiano gli arrivi in Italia. La vicenda di Giulio Regeni per la Procura di Roma, dall'Egitto reticenze e falsità, e chiede i verbali dell'interrogatorio degli agenti. Calcio, il caso ultra all'antimafia, Agnelli pronto a comparire. E parto leggendo questo comunicato. Il comitato di redazione e i giornalisti di Radio 24 esprimono solidarietà nei confronti del personale non giornalistico del gruppo 24 Ore, che oggi ha proclamato una giornata di sciopero, una protesta con la quale le rappresentanze sindacali denunciano la drammatica situazione del gruppo, l'incomprensibilità di molte scelte e chiedono all'editore chiarezza sul futuro dell'azienda. E partiamo quindi per le notizie dalla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle contro il ministro dello sport Lotti per il suo coinvolgimento nell'inchiesta Consip, su cui oggi, come vi dicevo, ha votato il Senato, e l'Aula del Senato ha respinto mezz'ora fa praticamente la mozione con 161 no, i sì sono stati 52 e 2 gli astenuti. E si apre intanto un nuovo filone nel versante napoletano dell'inchiesta sul caso Romeo Consip. I PM hanno disposto perquisizioni nell'ufficio del direttore generale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari napoletani e presso gli uffici della Romeo Gestioni al centro direzionale presso il Palazzo di Giustizia. Poi torneremo, insomma, a cercare di fare un po' di chiarezza in questa vicenda sempre più intricata. Appalti nel mirino anche a Roma. con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta, 9 persone sono state arrestate dai carabinieri del NAS per presunti appalti truccati nella sanità. Altre 10 persone sono indagate. Sotto inchiesta sono finiti dipendenti di ASL, imprenditori e pubblici ufficiali coinvolti, secondo gli inquirenti, in una ramificata rete di reciproche facilitazioni affaristiche creata per realizzare profitti e vantaggi personali attraverso traffici di influenze e false attestazioni. Fra gli arrestati, 3 persone sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Tra gli indagati c'è anche il parlamentare di Forza Italia Antonio Angelucci, finito nell'inchiesta per traffico di influenze illecite. Angelucci si dichiara totalmente estraneo ai fatti e sottolinea che l'ipotesi di reato contestata riguarda 2 assunzioni non avvenute. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha condannato l'ex sottosegretario Nicola Cosentino del PDL a 7 anni e 6 mesi di carcere al termine del processo di primo grado, cosiddetto carburanti, in cui era imputato per estorsione e illecita concorrenza con l'aggravante mafiosa. La Corte ha emesso condanna rispettivamente a 9 anni e 5 mesi e 5 anni e 4 mesi anche a carico dei fratelli. Sempre in Campania, da Napoli, oggi l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia su 18 appalti concessi dai comuni casertani. Un'ordinanza per 69 destinatari, 15 tra comuni, università ed altri enti coinvolti, 18 sarebbero gli appalti pilotati per un valore di circa 20 milioni. In alcuni casi sarebbero stati favoriti anche i casalesi. Sono i numeri che emergono dall'indagine che ha fatto scattare stamattina l'operazione coordinata dalla DDA partenopea The Queen. In manette anche l'ex assessore regionale al turismo e attuale consigliere regionale NCD Pasquale Sommese, al quale, secondo la procura, si rivolgeva per ottenere i finanziamenti l'ingegnere Guglielmo Dalregina, ritenuto il fulcro di un sistema complesso che ideava opere da appaltare, controllava le commissioni aggiudicanti e determinava il costo della corruzione. Ascoltiamo il colonnello Salerno, a capo della Polizia Tributaria di Napoli. In alcuni casi il prezzo, diciamo, della corruzione era rappresentato da una volgare mazzetta, in altri casi era data dall'affidamento dell'incarico, per esempio, di progettazione allo stesso Dalregina. In altri casi l'attribuzione di incarichi magari con riferimento ad altre gare. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E adesso passiamo alle elezioni politiche in Olanda. Sono elezioni legislative più seguite della storia recente dei Paesi Bassi e del resto il primo test chiave, dicevamo, per l'Unione Europea dopo Brexit e l'ondata populista in Francia e Germania. Il premier uscente, liberale di destra, Mark Rutte, che negli ultimi sondaggi dato in vantaggio, cerca il terzo mandato. E vedo proprio adesso un'agenzia battuta in questo momento, il VVD, il partito dei liberali di destra del premier Mark Rutte, è in testa nelle elezioni olandesi con 31 seggi, secondo i primi però exit poll, la chiusura delle urne. Quindi sono le dichiarazioni di voto di chi esce dalle urne. I populisti islamofobi e antieuropeisti di Geert Wilders sono secondi con 19 seggi. Questo per il momento sempre relativamente agli exit poll. Un voto, quindi, dicevamo, a cui l'Europa guarda con particolare interesse. Sul piano della polemica con la Turchia, contro la quale Bruxelles oggi ha preso posizione. Alza i toni l'Unione Europea contro la Turchia dopo l'escalation nella crisi diplomatica che ha contrapposto l'AIA e Ankara. L'Europa non aderisce alla Turchia, è la Turchia che vuole aderire all'Unione, così il presidente della Commissione Juncker alla plenaria dell'Europarlamento. Juncker si è detto scioccato da quanto sentito dalla Turchia contro Olanda e Germania. Non accetterò un raffronto tra i nazisti e i governi attuali. Chi lo sta facendo prende le distanze dall'Europa e non vuole inserirsi nell'Unione. Rincara il presidente europeo Tusk. L'Olanda è Europa, Europa è l'Olanda. Posto di libertà e democrazia, se qualcuno vede fascismo a Rotterdam è completamente distaccato dalla realtà, mentre il presidente dell'Europarlamento Tajani prende le difese dell'Olanda. Nessuno può offendere un paese democratico che va a elezioni, offendendo così tutti i cittadini europei e i valori nei quali ci riconosciamo. Noi siamo molto più di un mercato o di una moneta e proprio da qui dobbiamo ripartire. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ne parleremo, torneremo naturalmente sugli exit poll e vedremo, visto che le urne hanno chiuso praticamente 10 minuti fa, quando si avranno i risultati definitivi. Adesso parliamo del costo del denaro, perché la Fed, la banca centrale americana, alza il costo del denaro portandolo allo 0,75, un 1%, segnalando l'intenzione di voler procedere con altri 2 rialzi quest'anno, una decisione non unanime presa a fronte di un'economia americana che si rafforza con il tasso di disoccupazione al 4,7%. 7%, un'inflazione a febbraio salita del 2,7%. E poi invece sulle notizie italiane con i voucher, nella maggioranza prende piede l'ipotesi di cancellare del tutto i voucher, i buoni titoli economici, come chiede il quesito referendario, e di superare quindi anche le norme sugli appalti, così da annullare l'appuntamento del 28 maggio. Ne parleremo tra pochissimo di questo. Invece torniamo sulla politica con Beppe Grillo, che non è né responsabile né consapevole di quanto viene pubblicato sul suo blog e sui suoi account social. Lo ha comunicato a sorpresa lui stesso. I post di cui sono responsabile sono quelli che hanno la mia firma. Il PD ha perso la sua causa e quindi rosica. Beppe Grillo risponde così al Partito Democratico, che lo accusa di non prendersi la responsabilità di quanto scritto sul suo blog, punto di riferimento del Movimento 5 Stelle. Alla base della vicenda c'è la citazione per danni nei confronti di Grillo presentata dal tesoriere democratico Francesco Bonifazi per un post sull'inchiesta giudiziaria su Tempa Rossa. Quel pezzo non era firmato, perciò non è direttamente riconducibile al sottoscritto, si giustifica il comico genovese, sottolineando che il suo blog è una comunità online di lettori, scrittori e attivisti, semplice informazione libera in rete. Una spiegazione che però alimenta nuovi attacchi. La linea del movimento la dà il blog di Grillo, ma Grillo dice che lui col suo blog non c'entra, quindi chi decide? Si chiede il presidente democratico Orfini. Grillo è vigliacco e bugiardo, aggiunge invece Bonifazi, sottolineando che non è vero che il PD ha perso la sua causa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi l'infinita strage delle donne, ancora un femminicidio, un incidente con 3 morti in Friuli, secondo la Procura della Repubblica di Pordenone, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio volontario in relazione all'incidente in cui hanno perso la vita 3 persone lungo la Cimpello Sequalze lunedì scorso, quindi 2 giorni fa. Secondo le ultime novità emerse, Cristiano Di Paolo Antonio, commerciante di 45 anni, avrebbe indirizzato volontariamente il proprio furgone nel quale viaggiava con la moglie contro il camion che procedeva nella direzione opposta. Tutti gli occupanti dei veicoli sono morti all'istante, quindi lui con la moglie e anche l'autista del tir. Insomma, è una cultura macista e di morte, da chiedersi, tanto diversa da quella dell'ISIS. Di nuovo all'estero, Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha incontrato i big dell'industria automobilistica e ha annunciato la fine dei limiti alle emissioni inquinanti delle auto voluti da Obama. Immigrazione. Secondo l'agenzia Frontex, gli arrivi di migranti verso l'Unione Europea continuano a calare a febbraio rispetto a un anno fa, con 10.900 arrivi totali, pari a meno di un decimo di quelle del febbraio 2016. Il numero di arrivi complessivi segna però un più 46% rispetto a gennaio, a causa dell'aumento dei migranti entrati in Unione Europea via Italia. E si torna a parlare della vicenda di Giulio Regeni, perché la Procura di Roma ha chiesto una nuova rogatoria nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta sarebbe finalizzata all'acquisizione di verbali di interrogatorio di 5 agenti della National Security egiziana e del Dipartimento Investigazione Municipale del Cairo, coinvolti nelle attività di controllo del ricercatore italiano. I giudici italiani vogliono fare luce sulle versioni fornite dagli agenti, che ritengono piene di reticenze e non conformi al vero. La cronaca: alcune donne sarebbero rimaste incinte in occasione dei riti purificatori orchestrati da Paolo Meraglia, il santone di 69 anni arrestato lo scorso 7 marzo a Torino per stupro di gruppo con altri 2 uomini, e quanto emerge dagli atti dell'inchiesta condotta dalla squadra mobile del capoluogo piemontese. E poi una curiosità che riguarda i ragni, una ricerca: si confermano tra i predatori più voraci al mondo, nonostante siano piccoli e spesso invisibili. Questi carnivori a 8 zampe mangiano da 400 a 800 milioni di tonnellate di prede ogni anno, una quantità di biomassa impressionante se si considera che gli umani consumano circa 400 milioni di tonnellate di carne e pesce all'anno. A indicarlo è lo studio pubblicato sulla rivista The Science of Nature dello zoologo Martin Niffer dell'Università Svizzera di Basilea e del biologo Klaus Birkhofer, che lavora presso l'Università tedesca di Brandeburgo. Per chiudere, una notizia che riguarda il calcio: il legale della Juventus, Chiappero, sentito in commissione antimafia, ha assicurato che il presidente juventino Agnelli ha dato totale disponibilità a fornire il suo contributo sul caso dei biglietti a persone legate alla malavita. Poi ci torneremo anche su questa vicenda. Tra poco invece affronteremo uno dei temi di approfondimento di questa sera. Intanto i vostri messaggi potete continuare al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Aggiornamenti per chi vi... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Allora, tra poco cominciamo appunto ad approfondire alcuni temi che vi anticipavo all'inizio. Parleremo tra pochissimo anche del voto in Olanda, abbiamo detto quanto è importante, poi naturalmente lo torneremo a sottolineare. Intanto però un tema più nostrano, più casalingo, fra poco parleremo dei voucher tanto contestati e anche del loro destino. Però se non avete acceso puntualmente, tra poco vi ricordo anche i fatti principali, ricordatevi di accendere puntualmente alle 21 su Effetto Notte, e vi ricordo per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Prima le notizie. Inchiesta Consip, il Senato respinge la mozione di sfiducia contro Lotti con 161 no. Taverna del Movimento 5 Stelle dice c'era un sistema Renzi, il ministro dice non ho mai rivelato segreti. E poi Olanda, primi exit poll, il premier uscente Rutte sarebbe in testa secondo i populisti di Wilders con democristiani e sinistra. E poi la mossa per cancellare il referendum, via tutti i voucher, questo potrebbe essere un'ipotesi appunto per superare il referendum che dovrebbe esserci il 28 maggio, richiesto dalla CGIL. E poi 9 arresti a Roma per appalti nella sanità, 69 ordinanze a Napoli, e poi Cosentino, ex sottosegretario del PDL, condannato a 7 anni, pene anche per i fratelli. L'inflazione che rialza la testa e prezzi boom per le verdure in Italia, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti, contro Mosca 007 e hacker russi dietro l'attacco a Yahoo. Qui continua insomma lo spionaggio tra Stati Uniti e Russia. E poi questa nuova rogatoria italiana richiesta dalla Procura di Roma sul caso Regeni, perché dicono dagli agenti, dalle forze di sicurezza del Cairo, tante falsità e reticenze. E poi il caso Ultra per quanto riguarda la Juventus finisce all'antimafia, Agnelli pronto a comparire. Adesso parliamo invece, dicevo, dei voucher. Ieri è stata ufficializzata la data in cui dovrebbero essere votati i referendum richiesti dalla CGIL sui voucher, questi buoni con cui si pagano le prestazioni, si dovrebbero pagare le prestazioni occasionali, e anche il referendum sugli appalti. La data dovrebbe essere, è stata fissata ieri al 28 maggio, però la maggioranza si sta muovendo, la maggioranza di governo, in modo da superare, da evitare il referendum con una riforma dei voucher oppure addirittura con l'eliminazione, come forse ci racconta il nostro Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Ciao Matteo. Buonasera a tutti. Quindi 28 maggio, mancano 2 mesi e qualcosa, il governo però vorrebbe evitare questi referendum. Sì, il governo vorrebbe evitare il referendum, e quindi sono state fatte delle ipotesi negli ultimi giorni. Si era partiti da un ridimensionamento dei voucher da poter utilizzare solo a parte delle famiglie, con limitazioni per quanto riguarda la pubblica amministrazione, e poi si era ipotizzato anche di lasciarli alle aziende con un unico, praticamente, consolidatore di lavoro senza dipendenti. E poteva essere un'ipotesi. Quella che è subentrata nelle ultime ore invece pare essere la volontà di cancellarli complessivamente, in modo da stoppare senza se senza ma, diciamo, il referendum, il cui esito molto probabilmente è scontato, perché sui voucher si è fatta molta polemica, molte informazioni. Ricordiamo perché, Matteo, che cosa sì, è successo con i voucher in buona che sostanza, cosa sono e che cosa sì, è successo? Allora, i voucher sono dei buoni con cui si pagano le prestazioni di lavoro accessorie saltuarie. Il singolo lavoratore può incassare al massimo 7.000 euro all'anno, ma poi i dati dicono che in media ne incassa 500 euro all'anno, e diciamo che sono vittime del loro successo, nel senso che erano partiti nel 2003, si potevano usare in pochi settori, poi sono stati sempre più liberalizzati. Fatto sta che da poche migliaia all'anno che se ne vendevano, si è arrivati a venderne l'anno scorso, nel 2015, 130 milioni, l'anno scorso dovremmo essere arrivati a 160 milioni. Quindi diciamo che qualcuno ne ha approfittato un po' troppo. Un grande successo dietro cui, secondo molti, si nasconde il mascheramento del lavoro irregolare o nero. Cioè, il concetto è: io compro un voucher, lo tengo in tasca, io datore di lavoro, e lo uso solo quando c'è la prospettiva di avere un controllo. e quindi molti lavoratori li faccio lavorare magari per 8 ore, li pago 4 perché tanto comunque è una pezza d'appoggio, oppure non li pago proprio con i voucher, li tengo in nero e il voucher lo tiro fuori quando arriva il controllo. Questa era la situazione fino a qualche mese fa. Va registrato appunto che per cercare di raddrizzare un po' la situazione, per mettere fine alle polemiche, a ottobre è entrato in vigore un sistema di tracciabilità, per cui i datori di lavoro, prima di utilizzare il voucher, adesso sono obbligati a comunicare tutta una serie di informazioni agli ispettorati del lavoro, in modo che non può più accadere quello che avveniva in passato, per cui l'utilizzo postumo, no? Ex post del voucher per tutelarsi. Adesso bisogna dire: no, io utilizzerò questo giorno da quest'ora, tot lavoratori, questi sono i nomi, e iniziano a quest'ora, finiscono a quest'altra ora. Se per avere il controllo le cose non corrispondono, si va a fronte a sanzioni. Però mi sembra che Matteo si sia deciso appunto di passare alle maniere drastiche, cioè sì, dall'averle diciamo, dal tutto al niente. Dal tutto al niente, nel senso li eliminiamo, dopodiché si vedrà dopo se in che modo poterli reintrodurre. In questo diciamo che si apre un buco, perché appunto, come la stessa CGIL poi aveva ammesso quando c'è stata la polemica nei mesi scorsi, no? Perché la CGIL ha promosso il referendum per la loro cancellazione e poi cioè è emerso che lo stesso sindacato in alcuni casi li utilizza e ha ammesso che sono uno strumento utile in determinate condizioni. E quindi cancellandoli del tutto si crea un vuoto comunque, perché già si ipotizza di utilizzare il contratto a chiamata. E qua è curioso notare che il contratto chiamata fino al 2012 a sua volta era visto come il male, perché anche lì si ipotizzavano che c'erano dei grossi abusi. Dopodiché nel 2012 è stata introdotta anche lì la comunicazione preventiva e l'utilizzo si è dimezzato. Quindi il modo probabilmente per regolare i voucher ci sarebbe. Il problema è che non c'è più tempo. A questo punto il governo vuole fare tutto in fretta, vuole vietare il referendum e quindi probabilmente verranno cancellati o quasi. Grazie Matteo Prioschi di questa spiegazione così grazie chiara. Poi vedremo appunto quale sarà l'esito e il destino di questi voucher, capiremo se entro il 28 maggio effettivamente ci sarà l'eliminazione, la cosa più probabile, oppure una riforma. Grazie Matteo. Di nuovo. E oggi, dicevamo, si è votato in Olanda per le elezioni politiche, abbiamo detto che sono estremamente importanti, è un voto molto importante perché sono le elezioni anzi più seguite dalla storia recente dei Paesi Bassi, perché considerate un test vero e proprio per il futuro dell'Europa, su cui negli ultimi giorni si è abbattuto anche lo scontro diplomatico, no? tra l'Olanda e la Turchia, e dove il 22% degli abitanti ha un'origine straniera. Ma perché dicevo è così importante il voto per l'Europa? Perché è considerato a tutti gli effetti il primo test nei confronti del populismo e di una possibile avanzata dell'estrema destra in Europa dopo la vittoria della Brexit, dopo l'avanzata del populismo in Francia e l'elezione presidenziale di Trump. C'è con noi la nostra Roberta Pellegatta. Ciao Roberta. Sì, buonasera. Allora Roberta, i seggi sono chiusi alle 21, quindi 26 minuti fa esattamente. Sembra che ci sia stata una grande affluenza e che sia leggermente in vantaggio, almeno negli exit poll, cioè nelle interviste che fanno all'uscita dei seggi, il premier uscente Mark Rutte. Sì, stando agli exit poll, sottolineiamolo perché gli scrutini sono in corso e proseguiranno tutta la notte, però di solito sono affidabili quelli olandesi, ma sappiamo ormai che tutto può succedere perché siamo abituati a tutto. Ma stando agli exit poll, i liberali di destra del premier uscente Mark Rutte sembrano avviati a vincere largamente le elezioni in Olanda, sconfiando in qualche modo l'incubo di un'ascesa dei populisti islamofobi, anti-UE, quelli di Geert Wilders. Cosa dicono gli exit poll? Che i liberali di destra del premier Mark Rutte, che cerca il terzo mandato consecutivo, sono in testa con 31 seggi. Geert Wilders, appunto il leader del PVV, questo partito delle libertà anti-europeista e anti-immigrati, invece è secondo con 19 seggi, assieme però ai democristiani CDA e ai liberali di sinistra di 66. Parlavi poco fa dell'affluenza, che in effetti è stata altissima. prima, l'affluenza è stata dell'81%, e l'ultima invece, quella dell'ultima tornata per le elezioni parlamentari in Olanda, era stata del 74,6%, quindi una grandissima partecipazione di 12.800.000 elettori che sono stati chiamati oggi a rinnovare i 150 seggi della Camera Bassa, quella dei deputati olandesi, un test importante, lo dicevi tu, in vista dei prossimi test elettorali 2017, quelli di Francia e Germania. Ricordiamo tra l'altro, per dire qualche caratteristica dell'Olanda, che è il paese tra i paesi più popolosi al mondo, nonostante sia grande poco più della Toscana praticamente, sono pochi quelli senza lavoro, è il primo porto in Unione Europea, Rotterdam, quindi insomma è un paese che sta bene, è una società estremamente secolarizzata, il 67,8% dichiara di non praticare nessuna fede, è una monarchia costituzionale, nello stesso tempo una democrazia parlamentare, quindi un paese davvero particolare, dal quale si teme che possa iniziare una spallata ulteriore, insomma, all'Unione Europea, la possibile uscita dall'euro. Però, per quello che dicevi Roberta, per il momento sembrerebbe pare, però, il primo, però sappiamo che non possiamo fidarci fino all'ultimo momento. Stiamo parlando di exit poll. Exit poll. Allora ne riparliamo dopo, ci aggiorniamo con Roberta Pellegatta. Grazie, intanto ci prendiamo questa pausa di pubblicità, voi continuate con i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi WhatsApp che è il 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Quindi proseguiamo con le notizie, le avete sentite come al solito all'inizio nel riassunto della giornata e poi abbiamo parlato dei voucher che probabilmente per evitare da parte del governo il referendum del 28 maggio potrebbero essere eliminati. Poi ci siamo soffermati sulle elezioni in Olanda. Oggi si è votato in Olanda, i seggi sono stati chiusi alle 21, elezioni politiche molto importanti perché a seconda di chi vincerà si capirà anche un po' che futuro potrà avere l'Europa. Poi torneremo ad aggiornarci su questo. Per il momento sembrerebbe in leggero vantaggio il primo ministro uscente Mark Rutte della destra liberale. Ora però cambiamo argomento, torniamo su cose italiane con la mozione di sfiducia al ministro Lotti votata oggi al Senato che è stata respinta e poi sull'inchiesta Consip nel quale è coinvolto, che diventa veramente sempre più complessa e tra poco sentiremo chi la conosce bene ci spiegherà un po' i vari filoni anche in cui si sta articolando. Prima di tutto però, come sempre, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Inchiesta Consip respinta dal Senato con 161 no la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle contro il ministro Lotti, coinvolto nell'indagine. I sì sono stati 52, 2 gli astenuti. E nell'inchiesta Consip nuove accuse di corruzione contro l'imprenditore Alfredo Romeo. L'Olanda al voto, importante test per il futuro dell'Europa, grande affluenza ai seggi, chiusi alle 21. Cosentino condannato a 7 anni e 6 mesi, l'ex sottosegretario era accusato di estorsione. Costo del denaro, la Fed, la Banca Centrale Americana, rialza i tassi all'1%, altri due ritocchi previsti nel 2017. Voucher per evitare il referendum, si punta a un decreto legge per riformarli o per eliminarli. L'infinita strage delle donne, incidente con 3 morti in Friuli, per il PM omicidio, suicidio. Il conducente del furgone si è volontariamente lanciato contro il TIR, morto con la moglie, morto anche l'autista del camion. Stati Uniti, Trump incontra i big dell'industria automobilistica e annuncia la fine dei limiti alle emissioni inquinanti delle auto voluti da Obama. Immigrazione, secondo l'agenzia Frontex, calano gli arrivi dei migranti verso l'Europa, ma raddoppiano gli arrivi in Italia. La vicenda di Giulio Regeni, per la procura di Roma, dall'Egitto reticenze e falsità e chiede i verbali dell'interrogatorio degli agenti. E per il calcio, il caso ultra della Juventus all'antimafia, Agnelli pronto a comparire. E siamo quindi sull'inchiesta Consip, collegata naturalmente alla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle contro il ministro Lotti, indagato nell'inchiesta per rivelazione di segreto d'ufficio, mozione che è stata votata oggi, è stata respinta dal Senato con 161 no. Ritorniamo però sul caso Consip, che è scoppiato nelle settimane scorse dopo l'arresto dell'imprenditore campano Alfredo Romeo, arrestato per corruzione nell'inchiesta sugli appalti Consip. La Consip, ve lo ricordo, è la centrale acquisti della pubblica amministrazione, il cui compito principale è quello di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, quindi di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche. Secondo l'accusa, esisterebbe, per riassumere, un vero e proprio sistema Romeo, ovvero tangenti e favori in cambio di appalti. Per l'accusa, Romeo avrebbe dato 100.000 euro all'ex dirigente della Consip Marco Gasparri, che forniva informazioni riservate appunto sui bandi di gara. Nell'inchiesta sono anche indagati per traffico di influenze Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, e l'imprenditore Carlo Russo. Per traffico di influenze, cioè, avrebbero fatto da intermediari, da facilitatori tra corrotto e corruttore, proprio in virtù della parentela di Tiziano Renzi. Coinvolto anche, come dicevamo, l'attuale ministro dello sport Luca Lotti per rivelazione di segreto d'ufficio. Sentiamo oggi al Senato un passaggio in cui, del suo discorso con cui si è difeso dalle accuse. La mozione di sfiducia presentata dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle mette in discussione quanto di più prezioso io possegga: la mia moralità, prima ancora che il mio ruolo politico. Con molta umiltà, ma anche con la piena consapevolezza di chi crede nella politica come forma più alta di servizio civile, mi rivolgo a voi, signori del Senato, per respingere con determinazione questo tentativo. Dicevamo quindi respinta questa mozione di sfiducia. Del resto, in una sola volta in 70 anni di storia repubblicana un ministro è stato sfiduciato, fu il caso nel 1995 di Filippo Mancuso, che era allora guardasigilli nel governo di Lamberto Dini. Siamo con la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Buonasera. Grande giornalista d'inchiesta che adesso ci aiuterà a capire, ci sono nuovi sviluppi, no, nell'inchiesta Consip, un altro filone, oggi un'altra notizia, sì, su altre accuse di corruzione, sì, nei confronti di Romeo. Romeo avrebbe subito già questa mattina nuove perquisizioni. Non si tratta esattamente dell'inchiesta Consip, ma un'inchiesta che parte comunque da lì. Ci sono state delle operazioni di perquisizione da parte dei carabinieri del NOE di Napoli. In questo caso si parla sempre di corruzione per gli appalti delle pulizie del Palazzo di Giustizia. Un po' ironica la questione. Di pulizia ce n'è poca, sembra, in questa storia. Esatto, poi proprio nel Palazzo di Giustizia, in questo caso a Napoli. Già. Evidentemente ci si sta concentrando, per quanto riguarda l'inchiesta, il filone relativo alla corruzione, su tutte quelle che sono state le attività di Alfredo Romeo in questi ultimi anni. L'inchiesta Consip, questa diciamo è la nostra sensazione, avendo potuto anche leggere le carte dell'inchiesta, si concentrerà soprattutto a Roma su tutto quello che è l'appalto, i maxi appalti di Consip, per poter vedere se le procedure nel tempo sono sempre state corrette o meno. Per quanto riguarda però l'inchiesta, appunto, lo ricordo, ha questi due filoni: il primo, la corruzione, che vede indagato Romeo e il suo corrotto, tra virgolette, Marco Gasparri, che è un funzionario di Consip, che avrebbe appunto, per sua stessa dichiarazione, ricevuto 100.000 euro, ovviamente cifra che nega di aver dato invece Romeo, che in questo momento si trova in carcere, in custodia cautelare. Poi c'è il filone che riguarda il traffico illecito di influenze, che è questo reato anche complicato da provare, perché è l'intermediazione. Traffico per influenze. Esatto, il traffico illecito per influenze, di cui sarebbero accusati Carlo Russo, un piccolo imprenditore del settore farmaceutico di Scandicci, molto amico di Tiziano Renzi, padre dell'ex primo ministro. Qui la questione è un po' più complicata, perché Russo avrebbe detto di aver parlato con Romeo e poi di aver detto che tramite Renzi avrebbe poi cercato di avere degli agganci ai vertici Consip. Ovviamente Tiziano Renzi nega di aver avuto questi contatti, di aver avuto anche questi incontri a tre con Romeo e con Russo. Ci sono stati, secondo gli inquirenti, dei sospetti pagamenti che però allo Stato non risultano, almeno al momento, attraverso i bonifici. con delle letture di Pizzini, peraltro ritrovate nella pattumiera, sembrerebbe che Romeo avesse scritto 30.000 AT, quindi 30.000 euro, si traduce così, per l'inquirente a Tiziano Renzi, ed altre somme mensilmente da versare a Carlo Lusso. Evidentemente il traffico illecito di influenze, che si basa proprio sul fatto che forti di una relazione si cercano dei vantaggi, è qualcosa che ha a che vedere talvolta con la chiacchiera, con l'opportunità, col millantato credito. Insomma, rientra dentro un concetto più sfumato di reato, anche se si può intravedere, poi è poi difficile provarlo. Quindi ci si aspetta in questo caso un salto di qualità nell'inchiesta. Tiziano Renzi, lo ricordo, è indagato dalla Procura di Roma, che nel frattempo ha tolto la delega ai carabinieri del NOE di Napoli. Quindi evidentemente anche qui si complica, perché ci sono due procure all'opera, quella di Napoli e quella di Roma, ed evidentemente quello che ravvisiamo noi giornalisti, hanno avuto anche dei contrasti, o quantomeno non sempre si sono trovate d'accordo sul modo di procedere. E poi, come tu hai ricordato, c'è la parte relativa invece alla rivelazione del segreto d'ufficio. Lotti, essendo venuto a conoscenza di questa inchiesta, avrebbe poi avvisato i vertici Consip, che poi avrebbero proceduto ad operare delle bonifiche, quindi ripulire le cimici, attraverso cui gli inquirenti negli uffici avrebbero potuto vedere meglio queste dazioni di denaro e queste opere corruttive. Lo ricordo che i vertici di Consip, a parte Marco Gasparri, che è un dirigente, non sono allo stato indagati. Tuttavia le dichiarazioni di Luigi Marroni, amministratore delegato di Consip, qual è la sua posizione? La posizione è quella di essere stato sentito come una persona informata dei fatti, ed è chiaramente un ruolo molto delicato, perché essendo una figura apicale a Consip, la domanda è quanto lui veramente fosse a conoscenza o meno. Lo ricordo, è arrivato in Consip dopo Domenico Casalino, quindi dal 2015, quando questa gara che noi stiamo esaminando, cioè la gara per facility management da 2,7 miliardi, era già stata avviata nel 2013. Quindi ovviamente Luigi Marroni dice, come sua difesa, che non aveva contezza di tutti gli estremi di questa gara. Chiaramente è una posizione delicata, perché dal punto di vista politico viene sempre chiesta quale fosse poi la sua reale consapevolezza, e soprattutto quali fossero poi i rapporti con Tiziano Renzi, che lui non solo non nega d'avere, ma poi ribadisce negli interrogatori, dichiara di conoscere bene Tiziano Renzi, anzi di aver proprio subito delle pressioni. No? Noi abbiamo letto effettivamente che potrebbe aver subito delle pressioni nelle carte delle procure. Probabilmente era stato lusingato, come abbiamo riportato oggi sul Sole 24 Ore, con la promessa di incarichi governativi attraverso questa influenza che avrebbe dovuto fare Tiziano Renzi su pressione di Carlo Russo e su pressione a sua volta di Alfredo Romeo. Non ci sono però prove di corruzione, anzi spesso è vero, bisogna dirlo con onestà, che nelle intercettazioni lo stesso Romeo si lamentava del fatto che ci fosse una sorta di cartello, che non riuscisse davvero ad entrare in quegli uffici. Quindi si tratta di capire effettivamente quale fosse l'attività e i controlli intorno alle gare di Consip. Sara, a proposito di ripercussioni politiche, allora oggi abbiamo assistito al voto di sfiducia nei confronti di Lotti, che non è andato in porto, che è stato respinto. Lotti, fra le altre cose, avete sentito un passaggio del suo discorso, ha detto anche: respingo soprattutto con determinazione le accuse, mai rivelato segreti, dirlo una calunnia, perché è accusato appunto per rivelazione di segreto d'ufficio. Fiducia nella giustizia, vado a testa alta. E tra le altre cose ha detto: non accettiamo lezioni di moralità dal Movimento 5 Stelle fondato da un pregiudicato. Nel Movimento 5 Stelle garantismo intermittenza per i suoi sindaci a seconda della vicinanza al capo, e ha detto: si vuole colpire non me ma una stagione politica, dice Lotti, no? Sì, è evidente che Lotti in questo momento alza un po' il tiro, parla di una stagione riformista. Diciamo che secondo me è chiaro che attraverso le inchieste, almeno negli ultimi anni, anzi direi più che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, i partiti si fanno guerra fra loro. Ed è anche vero che in queste ore il Movimento 5 Stelle rischia di cadere dentro una contraddizione evidente per quanto sta accadendo a Roma. È chiaro che ogni partito fa dei distinguo un po' pro domo sua. La figura di Lotti, devo dire, è una figura che dal punto di vista del governo non è centrale, quindi anche comprensibile. È un ministro dello sport. Certamente la rivelazione di un segreto d'ufficio, di un'inchiesta, è una cosa grave, però devo dire che anche qui mi è stato fatto notare all'interno delle mie ricerche, insomma, dentro l'inchiesta, che e la butto lì un po' come una provocazione, che non c'è un segreto relativo a colui che è indagato. Cioè, colui che è indagato, se qualcuno dice di essere indagato, non c'è nessuna rivelazione d'ufficio, quindi bisogna un po' capire esattamente come è andata, i termini della questione, esattamente. Tuttavia lui effettivamente risulta indagato, la posizione si chiarirà ed era naturale anche aspettarsi che all'interno del Parlamento ci potesse essere una battaglia all'interno del proprio all'interno del, dei partiti. Si tratta però di qualcosa anche prevedibile, tutto sommato. Sara, vedo un'ultima cosa, poi ci salutiamo. Oggi è ripreso il Matteo Risponde, no? Tutti i mercoledì sui social suoi. Dice: mozione di sfiducia come quella contro Luca Lotti, il Movimento 5 Stelle la fa solo per trovare un po' di spazio sui giornali, poi prende delle sonore libecciate. È stata una mozione di sfiducia respinta con perdita da parte dei 5 Stelle. Poi oggi comunque i 5 Stelle hanno detto che non si tratta di strumentalizzazione, ma che è un grave pregiudizio per Lotti essere coinvolto, per la sua credibilità essere coinvolto in questa inchiesta. Comunque, insomma, seguiremo le prossime puntate, i prossimi sviluppi. Grazie Sara Monaci del Sole 24 Ore. Buonasera. Ciao, buona serata. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato lungamente dell'inchiesta Consip, così strettamente legata al voto dal Senato di oggi, la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti, che però è stata respinta. Questa è la notizia principale di oggi, possiamo dire. E poi Olanda, primi exit poll darebbero Mark Rutte, premier uscente, per in testa, insomma, almeno in questi exit poll. Ne parleremo tra pochissimo. E poi la mossa della maggioranza di governo per cancellare, superare il referendum che dovrebbe esserci il 28 maggio sui voucher. C'è l'ipotesi o di un decreto per riformarli oppure proprio di eliminarli del tutto. E poi l'inflazione che rialza la testa, prezzi boom per le verdure in Italia e nuova rogatoria italiana sul caso Regeni della Procura di Roma, questa richiesta di ulteriori documenti perché dicono dai PM dall'Egitto solo falsità e reticenze. Eccoci con Roberta Pellegatta. Roberta, ho visto che ci sono ulteriori notizie che riguardano gli exit poll. Sempre sì, è arrivato il secondo exit poll di queste elezioni parlamentari in Olanda, su cui erano fissi gli occhi di tutta Europa, ma insomma anche di tutto il mondo, possiamo dire, perché era proprio il primo test elettorale europeo molto importante. Da questo secondo exit poll emerge che i liberali di destra del premier uscente olandese Mark Rutte avrebbero ottenuto il maggior numero di seggi, 31. Invece i populisti di Geert Wilders sarebbero appaiati con 19 deputati ai cristiano-democratici. Dunque, stando a questi due exit poll, l'Olanda respinge l'ondata populista anti-immigrati e anti-europea. Però c'è da dire che rispetto al 2012 l'Olanda vede l'avanzata del partito PVV, che appunto è questo partito anti-europeista e islamofobo di Wilders, che adesso ha 4 seggi in più a spese della destra del premier Rutte, che invece di seggi ne ha 10 di meno. Da segnalare il crollo dei laburisti, che passano dai 38 seggi di 5 anni fa ai 9 di queste elezioni. E poi c'è anche da registrare il balzo dei verdi olandesi, che stando agli exit poll conquisterebbero 16 seggi rispetto ai 4 di 5 anni fa. Il leader è un trentenne di padre marocchino, si chiama Jesse Klaver, sta compiendo un'ascesa notevole e ha sempre più consensi. Da sottolineare l'affluenza, che è stata elevatissima, l'82%, quindi molto di più rispetto al 74% del 2012. Grazie. Grazie Roberta Pellegatta. Poi ricordo ancora alcuni dati interessanti sull'Olanda. Dicevamo prima che è tra i paesi più popolosi del mondo, nonostante sia grande poco più della Toscana. L'Aia è la sua capitale politica, mentre Amsterdam è la capitale economica. Rotterdam è il porto più grande d'Europa, è la terza città dell'Olanda, è il porto più grande d'Europa, e poi ha una popolazione che per l'80,9% olandese, per il 2,4% di origine indonesiana, il 2,4% tedesca, il 2,2% turca, il 2% del Suriname, l'1,9% marocchina, lo 0,8% delle Antille, il 7,4% da altri paesi. Perché ve lo dico? Anche perché è sempre stata considerata una società multietnica accogliente l'Olanda, e però negli ultimi anni è cambiata, c'è stata, diciamo, una chiusura rispetto a un'immigrazione che veniva vissuta come eccessiva, un paese già, appunto, come dicevamo, molto popolato, la paura del terrorismo. Gli olandesi sono una società fortemente secolarizzata, con il 67,8% che dichiara di non praticare alcuna fede. Abbiamo detto che è una monarchia costituzionale e anche una democrazia parlamentare, quindi un paese davvero particolare. L'Economist, la rivista Economist, lo colloca al 10° posto al mondo, l'Olanda, fra i paesi più democratici, e secondo una classifica dell'ONU che risale al 2013, gli olandesi sono il 7° popolo più felice nel mondo. Non so quanto è felice Dario Ricci, che lo vedo sorridere in modo solare. No, apposta che non trovavo la pagina dell'Olanda nell'Atlante, me l'avevi strappata te, che c'era scritti tutti questi bei dati, insomma, settimo posto. Un po' il profilo di questo paese, sono felici, però insomma ultimamente sembrano un po' arrabbiati. Devo dire che, parlando di calcio, perché è una grande emozione, è davvero bello vedere l'ondata arancione dei tifosi olandesi. Per il colore? Sì, ebbi la fortuna di vederli almeno in due occasioni, sia ai mondiali del Sudafrica, ma ancora c'ho nella memoria molto viva l'immagine agli europei del 2004, pensa. Com'è l'Olanda come squadra? Beh, è fortissima, sì. Cioè, campione d'Europa, ha sfiorato il mondiale, ma tu vedi questa distesa arancione di famiglie poi, e molti portano i neonati completamente arancioni, vedi questi tulipanini, solare, davvero è molto emozionante, pacifico e divertente. Anche discretamente affezionati al piacere del bere. Sì, ecco, vabbè, come vari paesi del nord Europa. Invece, parlando di Juventus e questa vicenda, no, del caso dei biglietti dati a persone, si pensa legate alla malavita, è finita anche davanti alla commissione antimafia questa vicenda, la presidente Bindi, diciamo, Rose Bindi, no? Ricordiamo sempre, proprio perché insomma ci ricordiamo almeno quello che abbiamo fatto due giorni fa, no? Cioè siamo sempre nello stesso percorso della vicenda, però di giorno in giorno arrivano delle notizie. No, in realtà l'avvocato di Agnelli, arrivano semplicemente degli approfondimenti e dei passaggi, nel senso che questa vicenda, la Juventus dal punto di vista penale non rischia nulla, o meglio non sono state riconosciute responsabilità da parte del club. Dal punto di vista sportivo rischia una sanzione, un'ammenda pecuniaria, perché nei regolamenti vari i club non possono avere contatti diretti con i tifosi nella gestione di alcuni servizi, tra cui il ticketing, no? Al tempo stesso, chiaramente, la giornata di oggi è comunque significativa, perché l'avvocato rappresentante della Juventus, Luigi Chiappero, si è presentato appunto di fronte alla commissione antimafia e ha ribadito da un lato la posizione del club, che è quella di negare che vertici possano essere entrati in contatto diretto, e ancor di più, ha spiegato l'avvocato, con la consapevolezza del ruolo specifico dell'interlocutore. La tesi della Juventus è che questi contatti, se ci sono stati, hanno coinvolto figure di secondo o terzo piano, in particolare il responsabile della security, con interlocutori di cui lui non era consapevole del ruolo rispetto a un clan di 'Ndrangheta. È chiaro che comunque già solo l'idea fa rabbrividire, e non è chiaramente neppure, ahimè, l'unico caso di questi contatti opachi. Il dato significativo è che tramite l'avvocato Chiappero, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha dato la sua disponibilità e ciò avverrà a comparire di fronte all'antimafia. Senti, invece per stare su cose più leggere c'è la Champions in corso, ma le straniere però, no? Ma le straniere poi alla fine diventano decisive, cugine, perché poi la Juventus è ancora in corsa e quindi stasera conosceremo i nomi delle ultime due qualificate per i quarti di finale, quindi le otto regine, tra cui ci sono anche i bianconeri. Allora siamo al 53esimo di gioco, sia a Madrid, dove Atletico e Bayer Leverkusen sono sullo 0-0, un risultato che chiaramente rinsalda la qualificazione, al momento almeno tale, dell'Atletico Madrid, forte del 4-2 dell'andata in terra di Germania, mentre sorprendente il risultato che si sta concretizzando a Monaco, dove i francesi sono in vantaggio per 2-0 sul Manchester City. Il Manchester all'andata aveva vinto 5-3, quindi con questo punteggio sarebbero qualificati proprio i transalpini. Partita ancora apertissima, però davvero questo incrocio riserva gol ed emozioni. E poi, se mi permetti, c'è stata la grandissima giornata dello sci azzurro, perché ad Aspen, Colorado, nevi mitiche, dove di solito va a divertirsi anche... Non certo nei Grand Canyon, voglio assolutamente, anzi Aspen è una delle stazioni sciistiche più esclusive, insomma di solito ci va il jet set dell'America bene. Ebbene, è una giornata straordinaria per i nostri colori, perché si stanno svolgendo le finali di specialità. Nella discesa libera, vittoria di Dominic Paris davanti all'altro azzurro Peter Phil. Peter Phil che così è riuscito a recuperare il distacco nella classifica generale della discesa libera che aveva sul norvegese Jansrud, che ha chiuso solo all'undicesimo posto, e quindi Phil si è confermato detentore della Coppa di discesa libera, un risultato storico. L'anno scorso già lo era stato, perché era stato il primo italiano a vincere questa Coppa, quest'anno addirittura l'ha confermato. Tra le donne, la nostra Sofia Goggia, grande protagonista di stagione, ha conquistato l'ennesimo podio, perché vittoria e coppa di specialità per la slovena Stuhec, grande dominatrice dell'annata nelle prove veloci, e la Goggia ha chiuso al terzo posto, veramente. Non vedo l'ora di ospitarla. Eccezionale, non vedi l'ora di ospitarla a Olimpia. Sì, dai, se tutto ricordiamo ci... quando? Domenica alle 20:30. Seguiteci ogni tanto, poi ci infiliamo con qualche replica in queste giornate. Però insomma, tra l'altro, ma dai, spero domenica prossima di farvi una sorpresa e magari di regalarvi le dichiarazioni di Sofia a Olimpia. Grazie, caro Dario. Grazie, ci possiamo salutare e direi che sì, ci riaggiorniamo come sempre brevemente alle 22:00.